Da principio si può anche non accorgersene, ma basta stare seduti per qualche minuto a un tavolino all'aperto del caffè della Borsa, avendo davanti la rupe a picco della torre dell'orologio e appena più a destra la terrazza merlata dell'arancera perché la faccenda appaia evidente. Capita questo. D'estate come d'inverno, col sole o con la pioggia, è molto raro che chi ha da percorrere quel tratto di Corso Roma preferisca tenersi al marciapiede di fronte, lungheggiante in piena luce la bruna spalletta della fossa del castello. Se qualcuno lo fa, potrà essere il turista con l'indice infilato fra le pagine della guida del touring e il naso all'aria. Potrà essere il viaggiatore di commercio, che la borsa di pelle sotto braccio scappa via frettoloso verso la stazione. Potrà essere il contadino della zona del Delta, venuto in città per il mercato, il quale, in attesa della corriera pomeridiana di Comacchio o di Codigoro, porta attorno con manifesto imbarazzo il proprio corpo reso pesante dal cibo e dal vino, ingurgitati poco dopo mezzogiorno in una bettola di San Romano. Potrà essere chiunque, insomma, ma non un ferrarese. Il forestiero passa e la gente seduta al caffè guarda e sogghigna. A certe ore della giornata, però, gli occhi si fissano in maniera particolare, i respiri addirittura si mozzano. Di che massacri immaginari non sono mai responsabili la noia e l'ozio della provincia? È come infatti se la pietra del marciapiede antistante debba essere squarciata all'improvviso dall'esplosione di una mina, di cui il piede del forestiero, dell'ignaro, sia in procinto di urtare inavvertitamente il detonatore. Oppure come se una rapida sventagliata della mitragliatrice fascista che, sparando appunto di lì, da sotto il portico del caffè della Borsa, in una notte di dicembre del 1943, abbatté lungo il medesimo marciapiede 11 cittadini, possa far compiere all'incauto passante l'identica breve, orribile danza, tutta sussulti e contorsioni, che nell'attimo della morte senza dubbio compirono, prima di cadere, esanimi, uno sull'altro, coloro che la storia ha da anni consacrato quali le prime vittime in ordine di tempo della guerra civile italiana. Niente di questo accade, si capisce. Nessuna mina scoppierà, nessuna mitragliatrice tornerà a crivellare di pallottole il muretto opposto. Per modo che, alla persona di fuori, venuta a Ferrara, poniamo per ammirarvi le bellezze artistiche, sarà consentito di passare dinanzi alle piccole targhe marmoree che portano incisi i nomi dei fucilati senza che il corso dei suoi pensieri abbia a soffrire del minimo turbamento. Eppure, talvolta, qualcosa accade. Si ode a un tratto una voce. È una voce non forte, bianca e incrinata, come l'hanno i ragazzi alle soglie della pubertà. E poiché esce dal gracile petto di Pino Barilari, il titolare della farmacia attigua, che, affacciato a una finestra dell'appartamento soprastante, rimane invisibile a quanti siedono da basso, per questi ultimi è sul serio come se scendesse dal cielo. La voce dice: «Badi a lei, giovanotto!» Oppure: «Attenzione!» Oppure: «Ehi!» E non è, ripeto, che ciò venga urlato. Suona piuttosto come un avvertimento bonario, come un consiglio espresso col tono di chi non si aspetti di essere udito, né in fondo abbia molta voglia di farsi udire. E così il turista o chiunque altro si trovi a calcare in quell'istante il marciapiede che ogni vero ferrarese evita, continua di solito per la sua strada, senza dare mai segno d'avere inteso quello di cui si sta avvertendolo. Lo intendono perfettamente invece sua, già l'ho detto, gli avventori del caffè della Borsa. Lo svagato forestiero è appena in vista e subito le conversazioni si fanno meno vivaci. Gli occhi si fissano, i respiri si mozzano. Si accorgerà quel tale, prossimo a servirsi come se nulla fosse del marciapiede della fucilazione, di star compiendo un'azione da cui farebbe molto meglio ad astenersi. Alzerà o non alzerà finalmente la testa colui dalla guida del touring, ma soprattutto scenderà o non scenderà a un dato punto dall'alto, aerea e assurda, ironica e triste, la voce dell'invisibile Pino Barilari? Forse sì, Forse no. L'attesa dell'evento ha spesso dello spasmodico. Né più né meno che se si trovassero ad assistere a una gara sportiva dall'esito particolarmente incerto. Ehi! Di scatto. Dinanzi agli occhi di ogni mente l'immagine del farmacista affacciato a una finestra dell'appartamento superiore. Per questa volta, dunque, lui c'è. Seduto al davanzale, in vedetta, con le braccia magre, bianchissime e pelose, levate a puntare in direzione di chi passa e non sa le lenti scintillanti di un binocolo da montagna. E in molti dei rintanati all'ombra protettrice del portico si fa ancor più vivo il sollievo di trovarsi dove si trovano, piuttosto che là, allo scoperto, alla berlina.